Buonasera e benvenuti di nuovo sulle frequenze di Radio Kairos, www.radiokairos.it, e si spera anche in FM su 105.85, a questa 17ª puntata della nuova stagione, della 7ª stagione in corso di Meteo FM, dedicata, per chi già lo sa, per i più fedeli ascoltatori o per chi ha subito il nostro solito spam informativo su Facebook, la seconda puntata dedicata al NOS, Primavera Sound Festival di Porto, a cui ogni anno dedichiamo un paio di speciali per illustrare tutta la programmazione in questi 3 giorni, che sono una versione ridotta e diciamo anche più adulta nei contenuti, insomma meno modaiola, più rivolta all'alt rock, al noise, all'hardcore, al post-punk della versione famosissima, popolarissima e mastodontica di Barcellona. Abbiamo iniziato la scorsa settimana illustrando il programma della prima giornata, che si svolge giovedì 9 giugno, e ci saranno 8 concerti che, in una situazione molto molto tranquilla e polleggiata, si svolgeranno su 2 palchi principali, alternandosi il palco NOS e il palco Superbock, per passare poi alla giornata del venerdì 10, dove invece sono attivi tutti e 4 i palchi, anche quindi l'Old Tomorrow's Party Stage e il Pitchfork Stage. Avevamo completato la metà esatta, ovvero 24 su 48 artisti partecipanti, e ce n'erano rimasti fuori 3 dalla giornata del venerdì. Quindi riprendiamo assolutamente da dove abbiamo lasciato e ricominciamo con il tedesco Roosevelt. Roosevelt, stilizzato, come spesso capita, insomma, di scritture particolari, di nomi di band, tutti in maiuscolo, il nome d'arte di Marius Lauber, tedesco. Noi l'abbiamo già conosciuto diversi anni fa per un pezzo pop, un po' danzereccio, molto carino, dal titolo Elliot, mentre quella che stiamo ascoltando è Hold On, di questo doppio A-side single uscito nel 2015 insieme a Night Moves. E invece no, infatti mi pareva il tag non è stato registrato, questo invece è proprio Night Moves. E quindi pensiamo che sarà lui, insomma, vedendo tutta la programmazione del venerdì. Come dicevo, la club culture, il clubbing, non ha moltissimo spazio nell'edizione portegna, portuense del Primavera Sound, ma appunto lui insieme a The Black Madonna, che abbiamo sentito l'altra volta, pensiamo che occuperanno, insomma, le ore più piccole del venerdì notte. We'll be right back. e finisce Night Moves di Roosevelt e passiamo a delle, insomma, nostre beniamine a cui dedicammo uno speciale di Mighty FM in occasione della loro venuta su questi palchi, ovvero a Locomotive. Parliamo del Savages, il loro debutto con Silence Yourself, seguito da quest'altra seconda prova notevole, Adore Life, uscita all'inizio di quest'anno e mixata a Trent Mueller, infatti nella mia funzione di driver per Robot abbiamo parlato di questa cosa. Io ho detto, beh, speriamo che recepiscano anche un po' la tua influenza, e lui ha detto, ah, ma io mixo soltanto il disco. Beh, vabbè, tanto di cappello lo stesso. E dopo i due singoli che hanno preceduto e accompagnato l'uscita dell'album, invece adesso sentiamo questa Evil, che leggendo il testo mi sembra assolutamente una difesa, una battaglia per i diritti civili, diciamo, per le famiglie alternative, per le famiglie omogenitoriali, per uno stile di vita alternativo e probabilmente lesbico e tutte le conseguenze, e quello che invece la società non vorrebbe mai permetterti. Cercheranno di farti rimanere, ti ruberanno la pace, inzupperanno le tue azioni nel dubbio se tu non vivi nel modo in cui a loro piace, ti faranno sentire la gelosia, un unico modo di crescere una famiglia, e ti strizzeranno il cervello finché tu ti dimenticherai il motivo per cui sei così spaventata. Resta cattolica, resta pragmatica. Non cercare di cambiare il modo in cui l'hanno fatto i tuoi genitori, credi a tutte le menzogne, non guardare le cosce, o ti pungeranno, ti infilzeranno gli occhi se ci provi. Mi sembra abbastanza esplicito. Ma il male è dall'altra parte. E finisce Evil delle Savages, uno dei nomi più attesi del secondo giorno del festival, insieme a PJ Harvey, naturalmente. E come dicevo, il Primavera Sound Porto riporta sempre tra i nomi presenti a Barcellona quelli della scena più adulta, più alt rock, più o meno tradizionale o devota al post-punk, al post-rock, all'hardcore, e c'è una concentrazione nella giornata di sabato che cominceremo ad esplorare tra poco, veramente, veramente altissima. Si sa che comunque i festival cercano anche di convogliare uno stesso pubblico all'interno della stessa giornata, in modo che se uno vuole appunto partecipare solo ad un giorno ha appunto band di proprio interesse. Comunque una delle band molto interessanti che hanno fatto comunque la storia della musica alternativa è la band dei Tortoise, o Tortoise, chissà, il loro mix di dub, jazz, prog e indie, John McIntyre, Todd Rittman, George Hubley, anzi Giorgia Hubley in realtà è dei Yo La Tengo e ha partecipato ad un pezzo di questo ultimo singolo uscito nel gennaio 2016. Sono già passati per Bologna a febbraio al Locomotive, l'ultimo loro lavoro The Catastrophist, che appunto contiene anche il singolo Yonder Blue cantato da Giorgia Hubley dei Yo La Tengo. Band seminale proveniente da Chicago e questa è appunto la title track, nonché primo pezzo di The Catastrophist. Tortoise, 11 album in oltre 20 anni di carriera, dal 94 il primo disco, anche se sono formati qualche anno prima, e questo The Catastrophist arriva a 7 anni di distanza dal precedente Beacons of Ancestorship. E l'unico altro nome nel programma di venerdì 10 che potrà un po' farci ballare, un po' muovere al suono di musica elettronica è il portoghese João Vieira. Ha iniziato la sua attività a Londra a fine degli anni 90 come DJ, musicista e club promoter. Ha fatto 4 album con la band portoghese Ex-Wife in cui cantava e suonava la chitarra. Negli anni 2000 ha fondato, ha rivoluzionato un po' la scena del clubbing di Porto aprendo un locale, il Club Kitten, e poi ha scelto questo nuovo pseudonimo White House, House scritto con la A, House, con cui ha pubblicato un EP omonimo nel 2013, il White House Album nel 2014 e proprio pochissimo tempo fa ha pubblicato questo pezzo singolo che si chiama This Is Heaven. Questo pezzo, This Is Heaven, è anche accompagnato da un video. Girato in un posto molto più freddo di Porto. E speriamo anche nelle previsioni meteorologiche clementi per i giorni del festival, che sappiamo c'è sempre un po' di rischio, anche se magari il fatto di essere una settimana più in là della data solita, che cadeva sempre insomma nell'ultimo weekend di maggio, primo di giugno, adesso appunto speriamo che il tempo sia un po' più calduccio, perché sennò può far veramente freddo nel parco da Cidade. Adesso con le debite differenze, però c'è un po' di somiglianza un po' col suono degli LCD Sound System, quindi almeno in spirito ci saranno. Con João Vieira in arte White House chiudiamo idealmente la programmazione di venerdì 10 e ci catapultiamo su sabato 11, ultima giornata del Primavera Sound Festival di Porto, e siccome non sappiamo ancora gli orari delle esibizioni su vari palchi, ma abbiamo come guida il nostro fidato ordine alfabetico, alla fine insomma il primo gruppo che ascoltiamo è un po' l'headliner della giornata, ovvero gli Air. Non hanno bisogno di tante presentazioni. Dedicammo al loro lavoro dedicato alla sonorizzazione per la riedizione a colori nel centenario di il viaggio verso la Luna, Voyage de la Lune de Méliès, dedicammo una nostra monografia, c'era anche poi il singolo cantato da Victoria Legrand dei Beach House. L'ultima pubblicazione vera e propria in ordine di tempo è un progetto, un lavoro commissionato dal Museo del Musée des Beaux-Arts de Lille. E infatti si chiama in modo molto didascalico Music for Museum, da cui ci ascoltiamo Octagon. A parte anche l'ottagono, è l'immagine di copertina, forse sarà una caratteristica architettonica del museo, probabile. Thank you. Yair che prima di andare a Barcellona e a Porto passeranno per l'Italia il 20 maggio al Labirinto dell'Amazzone di Fontanellato, in provincia di Parma, e il 21 maggio Spring Attitude di Roma, dove dovremmo esserci. Comunque, quindi li vedremo prima a Roma e poi seguirà speciale dedicato, prossime settimane arriverà dedicato allo Spring Attitude come ogni anno, 21 maggio, e poi comunque l'11 giugno a Porto e weekend prima a Barcellona. Air Headliners di questa terza giornata e primo nome annunciato ben prima che uscisse il cartellone completo. Noi li amiamo, li seguiamo da Moon Safari, che era il 98, e poi abbiamo scoperto Premier Symptom, che era uscito poco prima. Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunkel, che ha un progetto parallelo ultimamente, ho visto, insieme a un musicista islandese, Bardi Johansson, questo progetto di musica electropop Star Walker. Penso di averli visti un'unica volta, è quello che mi era piaciuto molto, ovviamente, che parte integrante di uno show, come può essere quello per la musica di ieri, era appunto lo spettacolo delle luci. Ma andando avanti, in ordine alfabetico, troviamo una novità per noi. A parte che ho visto che nella giornata di sabato c'è una preponderanza, una maggioranza schiacciante di band americane, come dicevo, particolarmente concentrato sul versante hardcore noise, e anche vedendo anche delle reunion dei nomi insomma nati negli Stati Uniti all'inizio degli anni 90 che ancora vanno in giro, come dicevo, questo è uno dei vantaggi, o pro o contro, dipende dal punto di vista, dell'allungamento della vita media e dell'aumento della qualità della vita. Ma c'è questo trio invece americano, è molto giovane, si chiamano Algiers, hanno fatto un album omonimo l'anno scorso in cui uniscono gospel all'industrial, al funk, al post-punk, e questo pezzo si chiama irony.utility.pretext. Algiers, dalla foto anche presente sul sito del nostro Primavera Sound, sembra un trio, ma Wikipedia mi dice che è un quartetto: Franklin James Fisher, Ryan Mahan, Lee Tesh e Matt Tong. Vengono da Atlanta e il genere viene definito sperimentale. In effetti, se mischi il gospel, il funk col post-punk, il noise e l'industrial, sei sperimentale. Oh, Proseguendo alfabetico, rimaniamo sempre negli Stati Uniti e con una novità per noi, anche se esistono da tanto tanto tempo e hanno fatto un po' degli album a singhiozzo con delle pause anche insomma di tanti anni, sono gli Autolux da Los Angeles, shoegaze, rock, dream pop dal 2005. Sono tornati il 1 aprile con un nuovo album, dicevo, dopo una pausa di diversi anni. Si chiama Pussy's Dead, è il primo disco pubblicato da una sub-label della Columbia, 30th Century Records, guidata da Danger Mouse. È un disco che ci è piaciuto molto all'ascolto, e leggendo anche la recensione di Pitchfork si tessono le lodi della batterista, che cantante Carla Azar, scelta anche da Jack White per il suo gruppo tutto femminile, le Peacocks. Questa bellissima è Select All Copy, primo disco di Pussy's Dead, e ho notato anche che i pezzi che sto scegliendo sono sempre i primi, chissà appunto perché io dico sempre che il primo pezzo di un disco, un po' il biglietto da visita che ti dà sempre insomma l'idea, il tenore eccetera, e infatti questi primi pezzi mi piacciono molto, e soprattutto questo Select All Copy mi fa venire un po' un groppo in gola, ha un po' appunto di quella nostalgia, malinconia, un po' dello shoegaze anni 90. Dicevo, Carla Azar, batteria, Eugene Gorester al basso e Greg Edwards tastiere e chitarra. Come dico, fare speciali sui festival è sempre l'occasione per scoprire cose nuove, anche per prepararti a quello che vedrai, a quello che vorrai vedere, insomma, per farti un po' la tabella di marcia. L'abbiamo sempre fatto con dei tempi d'oro di Benny Cassim, e dobbiamo ascoltare tutto prima per poter scegliere, e questo sarà appunto uno dei gruppi che non mi perderò, come fu per la grande sorpresa delle Yamantaka Son Titan un paio d'anni fa. Album coprodotto da Boots, collaboratore di Beyoncé e Run the Jewels. La recensione appunto dice che uniscono la dissonanza dei Sonic Youth dell'epoca di Dirty insieme ai suoni sognanti della 4AD, e che la maestria come batterista di Carla Azar assomiglia un po' alla precisione di batteristi come Phil Selway di Radiohead. È così triste essere sempre felici. Orlax, Autolux, Los Angeles, Pussy's Dead, l'ultima pubblicazione, il sito Nos Primavera Sound, visto che hanno scritto le schede tanto tempo fa, dicono: ah, questo gruppo uscirà nel 2016 un album. Ovviamente la maggior parte degli album annunciati sono già usciti, è per questo che poi andranno in tour. E uno dei vecchi nomi che si ripropongono a distanza di tanti anni è per esempio quello dei Bardo Pond, sempre americani. In giro veramente da tanto tempo. Il nome viene dal libro tibetano dei morti, pensato dal bassista Clint Takeda, gruppo poi formato dai fratelli chitarristi Michael e John Gibbons, poi voce e flauto di Isobel Sollenberger, batteria Jason Kurkonis. E anche loro nel 2015 hanno pubblicato un disco di due tracce, Is There a Heaven? Sì, però le due tracce durano tipo oltre 14 e oltre 12 minuti, e infatti ci stiamo sentendo una piccola sezione, diciamo la parte centrale di uno dei due pezzi, che è In Every Dream Home a Heartache. Misticismo, psichedelia, sostanze esoteriche, psichedeliche, tantissimi loro pezzi prendono il nome appunto da sostanze. Gruppo americano di psychedelic rock nato a Filadelfia per il 91, anni in cui le band spuntavano come funghi. Wikipedia ci dice che Bardo Pond's drug inspired music è spesso classificato come space rock, acid rock, post rock, shoegazing, noise o psychedelic rock. Come dicevo, hanno pubblicato Is There a Heaven, un disco con due tracce, sono proprio delle suite, dei mini trip, diciamo, di una decina, quindicina di minuti, e questa era, diciamo, la parte centrale di In Every Dream Home a Heartache. E l'ordine alfabetico dopo i Bardo Pond ci porta invece ai Battles, sono tornate alla grande nel 2015 per la Warp con l'Adidadi. Noi l'abbiamo già vista Club to Club in occasione delle puntate a questo festival dedicate suonammo.net e adesso invece ci ascoltiamo .com. Battles from New York, trio formato da Dave Knopka, Ian Williams e John Steinier, il batterista che c'ha questo setup di batteria pazzesco con questo piatto alto 2 metri, non so veramente come fa a suonare. Diciamo che l'effetto scenografico è notevole. Loro sul palco fanno un gran casino, sono molto divertenti, sono dei giocherelloni. Experimental rock, art rock, post rock, math rock, progressive rock, dicevo in questa giornata di sabato 11. Forse appunto hanno voluto privilegiare insomma dei nomi che comunque muovessero anche un certo tipo di pubblico e magari viene anche da lontano poi il sabato, così per vedersi questo pezzo proprio di storia, cioè Tortoise, poi sentiremo gli Shellac, poi gli Unsane, i Titus Andronicus, insomma tutta appunto questa scena un po' più dura, e poi Explosions in the Sky e come dicevo Battles, che hanno pubblicato questo Ladidadi sempre per la Warp dopo Mirrored e Gloss Drop. E questa era .com. E un altro nome che abbiamo sentito, abbiamo cominciato a leggere in giro da un po' di tempo e ho pensato, sì, però vabbè, la gente per inventarsi i nomi dei gruppi adesso sta un po' raschiando il barile, visto che il prossimo one man band si chiama Poggia Testa della Macchina, Car Seat Headrest, Poggia Testa del Sedile della Macchina. Il giovane Will Toledo, che ha pubblicato tantissimi lavori sul suo Bandcamp, proprio super prolifico, tenace, una decina di pubblicazioni, e tale perseveranza alla fine è stata premiata dall'attenzione, l'interesse della Matador, e ha pubblicato questo album nel 2015, molto carino, molto molto molto piacevole, quindi lo seguiremo con molta attenzione. L'album si chiama Tins of Style e il pezzo che ascoltiamo è Sunburned Shirts, Car Seat Headrest. Thank you. originario di Leesburg, Virginia, Will Toledo, adesso questo progetto solista ha sviluppatosi in band e ora di base a Seattle. Il nome viene comunque dal fatto che per questione di privacy Will aveva deciso di registrare le parti vocali dei suoi primi album seduto sul sedile posteriore della sua macchina, album che nel solo 2010 ne ha pubblicati 5, infatti in totale sono 12, e alla fine appunto dagli alla fine la Matador lo ha scritturato, li ha aggiunti al loro premiato roster. Will Toledo, Ethan Ives, Andrew Katz, Seth Dalby, che portano avanti la bandiera, la torcia del quando l'indie era indie, Car Seat Headrest. E poi arriveranno i nostri beniamini, anche loro, abbiamo dedicato una puntata poco tempo fa, qualche mese fa, sono i Chairlift, Caroline Polacek e Patrick Wimberly, abbiamo dedicato una puntatona alla loro dichiarazione d'amore alla città di New York, ovvero l'album che ha preso il nome di Falena, ovvero Moth, e siccome avevamo fatto sentire veramente tutto l'impossibile, abbiamo scovato, appunto facendo ricerche per la scorsa trasmissione dove abbiamo passato un remix e un pezzo poi più remix di Empress Off, Laura Lee Rodriguez, che amiamo tanto, anche lei, abbiamo scoperto che la stessa Laura Lee ha fatto questo remix con una base assolutamente latina del secondo singolo tratto da Moth, ovvero Romeo. Originale di Romeo è molto molto più energica, molto più adrenalinica, anche il video è molto carino, ne abbiamo parlato molto nella trasmissione a loro dedicati, fa piacere vedere che insomma un po' il cerchio si chiude, tutta la gente più o meno la stessa scena si conosce, lei era andata in tour in supporto Purity Ring e adesso scopro che ha fatto un remix per i Chairlift, per noi molto attesi, anche perché non li abbiamo mai visti dal vivo. Come abbiamo detto anche l'altra volta, noi li aspettavamo con molta molta trepidazione per il Pitchfork Music Festival di Parigi nel 2012, ma loro furono l'unica band a dare buca. Perché? Perché per la tempesta Sandy erano rimasti al di là dell'Atlantico, a differenza di tutti gli altri, e quindi niente, l'abbiamo persi. Adesso speriamo che, oltre a promuovere l'ultimo disco, facciano anche qualcosa dell'altro disco, che ci piace molto moltissimo, specialmente I Belong in Your Arms. Un altro dei gruppi che dicevo nati all'inizio degli anni 90 e poi formatisi, riformatisi, hanno perso dei pezzi alla fine, insomma parte della formazione originaria ha ripreso in mano il progetto e lo porta avanti, almeno per le date live nei festival estivi è quello dei Drive Like Jehu. Non so neanche esattamente come si pronunci, perché devo dire che anche nell'ambito della galassia del hardcore grunge rock alternativo degli anni 90 americani io non li avevo mai sentiti nominare. Ma non significa che se non li conosco io, significa che anzi io dichiaro sempre molta tranquillità la mia ignoranza. Hanno fatto un disco omonimo di debutto nel 91, seguito da Yank Crime del 94, ed è proprio da questo secondo disco che ascoltiamo Human Interest. Drive Like Jehu, Mark Kennedy e Mark Trombino. Hardcore, ma diciamo che il progetto adesso viene portato avanti dagli altri due membri, ovvero Rick Froberg e John Reis. Anche perché sono sciolte, anche perché poi John Reis ha portato avanti il suo progetto parallelo, anche forse ha avuto molto più successo, ovvero i Rocket from the Crypt. Trombino ha continuato la carriera musicale come produttore e ingegnere del suono, gli altri due hanno fatto altro, però alla fine Froberg e John Reis si sono rimessi insieme e portano ancora avanti il discorso dei Drive Like Jehu. Come dicevo, giornata anche concentrata sul post rock. C'è sempre un gruppone di post rock nel programma del Primavera Porto, e a distanza di 3 anni, perché c'erano già nel 2013 e c'eravamo pure noi, tornano i texani Explosions in the Sky da Austin, Chris Raschi, Michael James, Munaf Rajani, Mark Smith, che loro hanno fatto molti, molti album e molte colonne sonore, e i loro pezzi sono stati usatissimi in film, videogiochi, pubblicità, serie TV, trailer, che perché appunto essendo musica sperimentale, di atmosfera, si prestano molto. Particolarità della formazione: Michael James fa parte della band quando registrano in studio, mentre dal vivo suona Carlos Torres. Nel 2016 hanno già pubblicato un nuovo album, si chiama The Wilderness, e questo è ancora il primo pezzo di apertura, quasi quasi omonimo, ovvero Wilderness. Wilderness, primo pezzo di The Wilderness, da non confondere con Have You in My Wilderness di Julia Walter, che sentiremo il primo giorno del festival, ma invece questo è il terzo giorno, sabato 11, e questi erano gli Explosions in the Sky. Per tornare al versante clubbing, c'è un personaggio che abbiamo visto già un paio di volte sicuramente al Lux di Lisbona, ovvero l'inglese Mike Green, sì, nome d'arte Fort Romo. Ha fatto diversi EP e un album, credo l'ultimo singolo del 2016, diciamo EP, contiene tre pezzi, si chiama Secret and Lies, e questo è un estratto, diciamo, perché essendo insomma pezzi di musica elettronica più o meno, di clubbing, viaggiano sempre sui 6 minuti e mezzo, 7, 8 se non di più. Questo invece è un piccolo estratto, piccolo ma non troppo, di 74. Prima volta l'abbiamo visto sicuramente a Palazzo Renzo, ora ricordo, quindi per Robot di un paio di edizioni fa, due o tre edizioni fa, Mike Green da Chester, UK, due album, 2012 e 2015, Insides, e poi, come succede per chi fa un certo tipo di musica, tanti singoli ed EP, e questo è l'ultimo, Secret and Lies. Questo pezzo è 74, House ma non troppo. Ma lui ha una faccia proprio da bravo ragazzotto, tranquillo, carino. La maggior parte delle volte suona in camicia bianca con le maniche tirate su. Sì, questo pezzo house proprio poco, più minimal. Non sappiamo quanti anni abbia, ma non arriva sicuramente ai 27-28. È un altro nome che torna ciclicamente e che non manca mai nei festival portoghesi. Sono un po', insomma, gli idoli della scena alternativa da sempre. Io li chiamo i Sonic Youth portoghesi, ovvero i Linda Martini. Sober, water, Noi l'abbiamo già vista all'Optimus Live del 2013. Hanno appena pubblicato il 1 aprile. Tanti dei gruppi che stiamo ascoltando hanno pubblicato qualcosa di nuovo il 1 aprile. Loro hanno pubblicato un nuovo album, si chiama Sirumba, e questo pezzo si chiama Farda Limpa, che dovrebbe essere pannolino da neonato pulito. Linda Martini, tra l'altro la curiosità è che il nome viene da un'amica, una ragazza veneziana, italiana, che con cui erano diventate amici a Lisbona, qualcuno dei Linda Martini. Sono formati appunto a Lisbona nel 2003 e ora sono rimasti in 4 dei 5 membri fondatori, ovvero Andrea Enriquez, Claudia Guerreiro, bassista, Helio Moraes, che persegue una carriera di successo con il suo gruppo, i Pausch, visti anche da poco l'ultima volta qui a Locomotive, e Petro Giraldes. Ecco, un incidente linguistico, no, pannolino è fralda, farda invece è uniforme. Uniforme militare? Chiediamo conferma, Ana? Comunque, uniforme pulita. Però siccome ci stanno altri pezzi del disco che parlano comunque di famiglie e bambini, perché comunque penso che sia un disco generazionale, insomma, di come la gente cresce, magari mette su famiglia, io ho pensato automaticamente a Fralda. Però quasi quasi mi piaceva di più. E finiscono così Linda Martini e passiamo a un altro appunto nome, sembra un po' appunto la giornata dei vecchi nomi, insomma un po' delle reunion, anche se sì, già dall'anno scorso erano tornati in circolazione, e sono gli inglesi Loop, e loro girano dalla fine degli anni 80. Della line-up originale rimane solo Robert Hampson. Nel 2015 hanno pubblicato un EP di 3 pezzi, si chiama Array One come numero, e questo è sempre un estratto, perché sono pezzi sempre di 6, 7, 8 minuti. Di uno dei pezzi contenuti in questo disco è Procession. Sarebbe curioso fare il calcolo dell'età media dei musicisti della giornata del sabato. Tra l'altro i Loop hanno già suonato al Primavera Sound nel 2014, si erano formati all'inizio del... alla fine, dicevo, degli anni 80, ma già nel 90 si erano già sciolti, poi si sono presi e lasciati. Poi si sono riformati nel 2013, per questo l'abbiamo visto, ma già nel novembre 2014 Amson aveva appunto comunicato una nuova line-up, essendo lui l'unico rimasto della formazione originale. E un altro gruppo che ritorna al Primavera Sound di Barcellona sicuramente sempre dal 2013, diversi gruppi che erano nel 2013 ritornano quest'anno, sono gli spagnoli, anzi guai a dire spagnoli, catalani che cantano in catalano, sono i Manel. Diciamo questo pezzo è abbastanza rock, diciamo tradizionale. L'album uscito anche questo da poco si chiama Jo Competition, forse più gareggio, però gli altri pezzi, insomma, è un po' eclettico, significherebbe fare un complimento, insomma. Questo pezzo, che mi pare appunto essere il primo, Les Cosines, è quello che ci ha convinte di più. Nei miei appunti leggo che forse l'ultimo pezzo, Sabotage, sembra Lifeline degli Spandau. Comunque, questi sono i catalanissimi Manel. E sfuma così Les Cosines. Abbiamo cercato una traduzione di questa parola, la stavamo cercando ancora, non l'abbiamo trovato. Forse sì, Les Cosines forse significa proprio Les Cosines e basta. E il nome attesissimo, diciamo l'headliner insieme a Yair di questa giornata finale, sarà quello dei Moderat. Successo mondiale, globale, trio formato dall'unione Sasha Ring, Apparat e Mod Selector, e quindi Moderat. Tre album, primo, secondo e terzo, uscito da poco. Il mio commento, il mio giudizio critico molto elaborato e sofisticato su quest'album è: che palle, ma questa Running è carina. Try hard. But our time is stolen. confermo, le scusines sono le cugine. Dicevo, Moderat, che palle, come ho detto l'altra volta, penso a proposito del mio ultimo incontro con i Mod Selector, vero Gernot Bronsert e Sebastian Zary, sono dei furboni, probabilmente, ma secondo me danno un po' troppo spazio alle velleità di Sasha Ring, soprattutto come cantante. Anche il primo singolo, Reminder, sembra veramente una copia di Thom Yorke. Vabbè, insomma, questa Running invece ci piace. Ovviamente li guarderemo. Diciamo che i primi tre pezzi dell'album, tra cui questa, sono piacevoli, poi però diventano veramente di una grande monotonia. E parlando appunto di età avanzata, un altro nome che gira da decenni è quello di Neil Michael Hagerty. Prima con Pussy Galore, poi con i Royal Tracks soprattutto. E poi dal 2003 una nuova band, The Howling Hex. Infatti ufficialmente nel programma del Primavera è Neil Michael Hagerty and The Howling Hex. Questo mix di reggae, polka soprattutto, acid rock. E ci stiamo ascoltando questo pezzo con The Howling Hex, ho fatto una decina di album, poi c'è stata una pausa. E ci stiamo ascoltando Highlights, tratto da The Best of the Howling Hex del 2013, che non è assolutamente un best of. Questo insomma un po' dei gruppi che non rientrano nel mio panorama musicale, ma appunto leggo, mi informo e studio e capisco che questo nel 2013 fu il primo disco dopo 6 anni e che vedeva un ritorno all'uso della voce. Ma mi sembra veramente un mattarello, niente male, Neil Michael Hagerty. E poi nel programma del Primavera c'è sempre qualche gruppo che viene da Down Under, ovvero dall'Australia. In questo caso sono gli australiani Royal Headache. E questo pezzo, Another World, ha qualcosa dei Clash nel cantato, tratto da High, il loro secondo album. anche loro, da quel che leggo, mischiano punk a soul, The Jam più Otis Redding. Quartetto, nomi d'arte, Shogun, Low, Joe e Shorty. C'è sempre uno Shorty. Another World, tratto dal secondo album dei Royal Headache, mal di testa reale, come spesso anche a noi ci capita, come ci è successo tipo domenica scorsa, australiani. Questo era pezzo tratto dal secondo loro album, High. E poi un ritorno gradito al Primavera Sound, come ogni anno che Dio ha mandato sulla terra, i Shellac. Partecipano sempre, sempre, sempre, ci sono sempre. L'ultimo disco che hanno fatto, il gruppo di Steve Albini, era Dude Incredible del 2014. Ebbene sì, sebbene breve, uno dei pezzi più brevi del disco, lo abbiamo messo in scaletta. Questo è Mayor / Surveyor. Cioè, giusto per dire che ce l'abbiamo messo, ecco. Bello che se googoli Shellac viene fuori una marca di smalti per unghie. Anzi, Shellac, forse. Steve Albini, più che altro conosciuto, sarà sempre conosciuto come il produttore di Nirvana, e poi Bob Weston e Todd Stanford Trainer. È un altro gruppo che potevamo anche non mettere, ma invece lo mettiamo per un pezzo di 29 secondi, è Titus Andronicus, ovvero Titus Andronicus per noi. Questo pezzo di 20 secondi, tratto da The Most Lamentable Tragedy del 2015, gruppo dell'egocentrico Patrick Stickles, disco super punk. Una cosa interessante che ho scoperto, vabbè, a parte Titus Andronicus, la tragedia di Shakespeare scritta alla fine del Cinquecento, è che la storia di Titus Andronicus è questo generale immaginario inventato, generale romano, che vuole vendicarsi di Tamora, regina dei Goti, quindi è un rosicone, come Aria, la rosicona di Grand'Inverno, e anche lui, Patrick Stickles, è un po' un rosicone, ce l'ha con tutti, si crede veramente meglio di tutti, forse Titus Andronicus non ce li vediamo, e invece per la seconda volta al Primavera Sound di Porto vedremo Ty Segall, accompagnato dalla sua nuova band, The Muggers, poi puro rock and roll, super prolifico. Ha pubblicato all'inizio di quest'anno un nuovo disco, Emotional Mugger, presentato da una spiegazione di cosa è l'Emotional Mugger, cioè il mugging, l'Emotional Mugging. No, mugging in generale è una rapina, e quindi la rapina emotiva è il soggetto è il concetto di questo album, e lui lo spiega in un video di accompagnamento all'album. Spiega che questo furto emotivo, questa rapina emotiva, è il soggetto psicanalitico studiato e che è una risposta emotiva al nostro ambiente, che invece è iper sessualizzato, perché si tratta di uno scambio non verbale e non fisico, uno scambio emotivo né verbale né fisico. Indipendentemente dallo stato di di chi la agisce questa cosa, di chi la subisce. E questa attività, dice lui, può aiutare a riempire i buchi nel nostro ego e riempire i gap nella nostra società. Questo è anche il primo pezzo che apre il disco, è Squealer. Purissimo rock and roll, quello di Ty Segall. E chiudiamo con un altro di quei gruppi di cui dicevo prima, ovvero gruppi nati all'inizio degli anni 90 a New York, noise, post-hardcore, alt metal, molto metal. Ultimo album, Wreck, del 2012, appartenente alla scena dei Pussy Galore, Cop Shoot Cop, degli Helmet, dei Boss Hog. Sono gli Unsane. Spencer, Dave Curran e Vinny Signorelli, gli Unsane. E con una grassa risata finisce anche questo secondo speciale al NOS Primavera Sound di Porto, 9, 10 e 11 giugno. Noi saremo lì. Ciao da Claudia, Mighty, Marco.